Io pure stavo ipotizzando un'eventuale collisione. O un'esplosione in volo. Nei siti radar c'è agitazione. In questa registrazione inedita si può ascoltare la conversazione tra gli uomini della sala operativa di Licola in codice Barca e il centro di Marsala. Barca? Sì? Sapete voi per caso avete visto l'idiota 870? Senti, stiamo parlando con Sasso, ci stiamo mettendo d'accordo con loro, va bene? Ma non l'avete visto? Senti, Sasso, stiamo facendo portare una traccia che probabilmente forse sarà proprio questa. E dove sta? Dove stava? Intanto gli operatori di Ciampino tentano di chiamare l'ambasciata americana. If the aircraft has crashed, the 81 person is dead. So I think it's important enough to call somebody. Okay, just a moment. C'era una situazione in giro? Americana? Fino a che ora? Quanto? Un'ora e mezza. No, quello mia, il tempo di volo quanto era? Ma poi c'è stata il tempo di volo la mezza. Un certo 08 e 40 18.08, 19.08, 20.08, 20.08, 20.38, e ci siamo, ecco. Avete avuto qualche contatto? A Palermo stanno già in crisi, eh? Aspetta, telefonato adesso qui uno dei giornali in Sicilia. Comunque va fatta la domanda attrezzata, ma questo semplicemente avete avuto contatti, avete semplicemente perso contatto e basta, dico sempre, questo semplicemente perso. Capita, guarda, l'unica cosa era riuscire a beccare di qualche ambasciata, era riuscire a parlare con qualche americano che si E come? Questo che io sto chiedendo a loro. Io quindi ho telefonato E sempre in quelle ore concitate Martina Franca chiama il sito di Dicola, Barca. Hai visto per caso un NTO dell'Europa 70 19 da Bologna a Palermo? Da Bologna a Palermo? A che ora è passato da noi? Questo è un punto stimato. Questo qua è passato da voi circa mezz'ora fa. Allora come era? Quindi hotel? 870. 19, da Bologna a Palermo. Da Bologna a Palermo. Adesso vedo un po', faccio registrare qualcosa, eh? Registrare qualcosa, per piacere. Vabbè. Dopo la viabilità e il racconto del giallo nero su Ustica.